Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca, il concerto numero 1 opera 23 per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Buongiorno, sono Luca Mosca e sto insieme a voi per cominciare una lettura, un'analisi delle sei sinfonie di Tchaikovsky, e in questa prima puntata e nella seconda del concerto per pianoforte e orchestra numero 1 e del concerto per violino e orchestra. Oggi quindi vi parlerò dello straordinario concerto numero 1 del 1875, quindi tenete conto che Tchaikovsky era nato nel 1840 e questo concerto l'ha scritto a 35 anni di età. È un concerto già della piena maturità del compositore russo, compositore che è stato un po' ha avuto dei periodi, insomma, ci sono stati dei periodi, soprattutto mi ricordo quando ero ragazzo, era molto osteggiato, insomma, veniva considerato una specie di sentimentalone, no? Un po' superficiale, soprattutto succede a quei compositori che hanno una grande capacità di scrivere melodie, e Tchaikovsky è sicuramente uno dei più grandi melodisti della storia della musica, e spesso vengono fraintesi perché si pensa che siano poi in realtà dei faciloni, dei superficiali, no? In realtà Tchaikovsky aveva una preparazione accademica straordinaria. Sapete che poi è stato contemporaneo del gruppo dei cinque, no? Mussorgsky, Balakirev, Borodin, eccetera, eccetera, che invece basavano la loro poetica sulla musica russa. No, sulla musica russa, e Mussorgsky proprio con una preparazione molto poco accademica. Infatti Mussorgsky parlava abbastanza male di Tchaikovsky perché lo riteneva un reazionario accademico. In realtà questa preparazione accademica di Tchaikovsky è una base artigianale che per lui, per il suo mondo, era indispensabile, assolutamente indispensabile, e soprattutto vedrete che raramente è accademico. Accademico, è sempre estremamente se stesso, estremamente originale, estremamente personale. Allora, proprio a smentire questa accademicità, no? No, questo modo di fare melodie quasi come fosse ispirato dal cielo, cominciamo a pensare a come è costruito questo primo tempo del concerto di pianoforte e orchestra. Il tema è questo, celeberrimo. Ecco, se sentiamo subito dopo il primo tema del pezzo, perché questa è l'introduzione, dopo 3 minuti di musica c'è il primo tema, che invece non è per niente melodico, no? E diciamo così, strappalacrime. Sentite, è nervoso. Ma è una costola del tema dell'introduzione, del tema retorico, sentite. Diventa, oppure sentite il secondo tema del primo movimento, questo quindi abbiamo i tre temi, cioè i due temi successivi, il primo e il secondo tema, che sono direttamente costruiti sull'introduzione del primo movimento. Ascoltiamo subito lo straordinario suono dell'orchestra di Tchaikovsky. Sentite che è subito affermativo. E adesso c'è il pianoforte che fa degli accordi in tutta la tastiera. Può sembrare pura retorica, e lo è, ma è anche una meraviglia. È come una canzone popolare con questo accompagnamento di accordi, no? Come se fosse un'orchestra di balalaiche. Questo è assolutamente un inizio indimenticabile. Un inizio assolutamente indimenticabile, che fra l'altro è stato usato mille volte, no, in pubblicità, in sigle televisive, radiofoniche, no, in ogni modo. Ora, questo inizio, sentite come subito di queste quattro note discendenti diventano costruttive di un piccolo sviluppo. Sentite questo secondo stacco musicale. Ta ta ta ta. Adesso è legato, prima era staccato. Sentite? Adesso sentite gli archi come si inseriscono. Qui gli archi hanno una scrittura tutta ottavata, cioè tre ottave, i primi violini, i secondi violini, le viole e i violoncelli fanno all'unisono, no, la melodia. È un inizio assolutamente folgorante. Adesso andiamo a sentire quando c'è l'esposizione del primo tema, che invece, come vi ho fatto sentire prima, è qualcosa di estremamente secco, no? È stato un allegro, è molto più veloce. Sentite? Nervoso. Vi ho già fatto sentire come questo meraviglioso diventa... Sentiamo come prosegue con l'orchestra. Adesso comincia a giocare con questo tema. Sentite i flauti, il pianoforte, i legni, il pianoforte. Di nuovo il flauto, clarinetto. Gioca. E intanto sta cambiando tonalità, flauto e oboe. Ecco, questo elemento, no, tara, tira, tira, tira, diventa un elemento fluido invece successivamente, e quando il pianoforte imita veramente una balalaica. Sapete che la balalaica è un po' come un mandolino, può fare... Ecco, la stessa cosa fa il pianoforte, sentiamo. È assolutamente una balalaica. Quindi, in realtà Tchaikovsky è un compositore occidentale, ma è anche estremamente russo. Non è vero quello che dicevamo nel gruppo dei cinque. Ecco, questa è l'anticipazione del secondo tema, la balalaica, ed ecco il secondo tema. Completamente, ecco l'elemento... Tararira, era l'elemento mutuato dall'introduzione. Ecco il pianoforte. Quindi questo... No, capite? Allora non è vero che Tchaikovsky accumula idee diverse senza soluzione di continuità. Direi che è una lettura scorretta della musica di Tchaikovsky. Vedrete in tutti i pezzi che analizzeremo in queste settimane, massimamente poi nelle ultime sinfonie, c'è un'unitarietà tematica a dir poco sconvolgente. Sconvolgente. Allora, andiamo avanti a sentire questo meraviglioso secondo tema, molto lirico. Ed ecco l'orchestra che riprende. Questi sono i violini. Questo tema, che è una seconda parte del secondo tema, completamente diversa. È molto importante che voi memorizzate queste quattro note. Sentite, queste sono quattro note ascendenti. E adesso sentirete che cosa combina Tchaikovsky. Adesso il pianoforte cita le prime tre note del secondo tema. Di nuovo gli archi, di nuovo il pianoforte con le tre note. I violini lo imitano, sono influenzati da lui, quindi si dimenticano del loro tema. Ed ecco meraviglioso il secondo tema col flauto. E il pianoforte all'unisono. Questo Rachmaninoff viene da qua. È molto meglio Tchaikovsky. Oh boy, col pianoforte. Clarinetto. È sempre all'unisono col pianoforte. Sento come l'orchestra diventa un'amplificazione del pianoforte. Adesso il pianoforte è solo. Passaggio che già sembra Prokofiev, sentite. Prokofiev. Passaggio di ottave di una difficoltà spaventosa. Qui è quasi scriabiniano. Ecco, vedete che continua a dire Prokofiev, Rachmaninoff, Scriabin, cioè tutti i compositori della generazione successiva, perché questo concerto io credo sia stato per i russi un colpo, insomma, tutti i compositori, tutti i grandi compositori successivi. Ricordiamo che Stravinsky, che parlava sempre male di tutti, fosse l'unico di cui veramente parla bene, a parte i compositori da Gesualdo all'indietro, no? È proprio Tchaikovsky, ha un rispetto per Tchaikovsky, una venerazione per Tchaikovsky assoluta. Avete sentito finora una musica di una qualità di scrittura veramente stupefacente, insomma, che comunque è un compositore di una qualità superiore. Io credo che si possa paragonare a Brahms, addirittura come orchestratore, come grandezza, dico, sono completamente diversi, ma come orchestratore forse è addirittura un gradino più in alto di Brahms, perché Brahms è più regolare, diciamo così, sempre stiamo parlando di un orchestratore straordinario anche Brahms, e che Tchaikovsky è assolutamente geniale, sentiremo le prossime puntate e anche in questa che cosa è capace di fare. Andiamo adesso al frammento successivo, e ricordate sempre il tema dei violini, no? Questo meraviglioso... queste quattro note ascendenti. Sentiamo. Primo tema. Questo è lo sviluppo. Sentite le quattro note ascendenti. Tararari. Eccole. Le sminuzza. Sempre più a frammento. Sentite, adesso le accelera. Le quattro note ascendenti. Di nuovo. Sono quattro note ascendenti e poi discendenti. Eccole. Eccole, eccole. Adesso intensifica il ritmo. Va a terzine. Eccole. E adesso sentite, questo movimento ascendente improvvisamente diventa discendente. Eccola. Sono quattro note discendenti. Pianoforte. Ecco, avete sentito allora che straordinaria trasformazione da una figura di quattro note ascendenti, come per magia, piano piano trasforma la materia fino a che diventano quattro note discendenti e torna il pianoforte, no, in primo piano. Nel passaggio che vi faccio sentire adesso, sentite come trasforma ancora queste quattro note in un'ulteriore forma. Sentiamo. Quattro note discendenti. E adesso andiamo, sempre avventurandoci in questo meraviglioso primo tempo, saltando di brutto, no? Sentiamo la cadenza, perché la scrittura già risente di Schumann, sicuramente gli studi sinfonici, questo è il modello di queste due voci della mano destra che si rincorrono, ma prelude già a Scriabin. Ecco la prima voce. Questa è una trasformazione del secondo tema. senti le due voci, la voce più alta e la voce media. La mano sinistra fa solamente arpeggi. Adesso sentite cosa fa Tchaikovsky. Riprende il tema degli archi come un carillon. Eccolo. Una magia. Le quattro note ascendenti. Ecco, adesso a questo punto dobbiamo assolutamente passare al secondo tempo, che è un'altra meraviglia, è un'altra magia. Volevo dirvi subito una cosa: il secondo tempo ha un tema altrettanto celeberrimo. Intanto vediamo queste note iniziali. Allora, se ritorniamo al primo tema, eccole, sentite. Eccole. Diventa... Caspita, è la costola di Adamo. La costola di Adamo nasce Eva, sentite. Eccole quattro note ascendenti, sentite. Eccole. Non abbiamo fatto altro che sentire questo nota. E ce lo ritroviamo nel secondo tema. E quindi sentiamo questo... Ma sentiamo il secondo movimento. Trovata geniale questi pizzicati degli archi. Flauto. Eccolo. Cominciano le note, le quattro note ascendenti, abbiamo visto, sono mutuate dal primo movimento. Eccetera, eccetera. Passiamo allora alla parte centrale di questo adagio, perché questa era l'esposizione tematica. Avete sentito che è di una tranquillità assoluta, no? Rispetto al primo movimento, che è così variegato, no? E va continuamente a eccitarsi o a deprimersi, come il carattere di Tchaikovsky, che era un depresso cronico, e quindi ha dei momenti di eccitazione come nessun altro. Questa parte centrale è di un'eccitazione assurda, è quasi delirante, è quasi astratto. Sentirete che per un certo periodo di tempo è quasi una musica senza tema. Sentiamo. Stiamo sempre parlando del secondo movimento. Sentite, sembra Sciarrino. È una musica lampeggiante, come se lampeggiasse. Sembra che non vada da nessuna parte. Invece va qua, a questo tema infantile degli archi. Però sentite il pianoforte. È come un tic nervoso, un tic nevrotico. È come se il volto di Tchaikovsky qui avesse dei raptus improvvisi. Una forte sembra che vada per conto suo, no? Ed ecco, riprende la parte astratta, sentite. Visionaria. Senti che l'orchestra qui è come un pianoforte allargato, no? Fa gli accordi, dovrebbe fare il pianoforte. Senti adesso un accordo molto forte, che porta come una grande volata debussiana o listiana, direi, no? Più listiana che debussiana. È un recitativo. Improvvisamente qui tutto si calma. Liszt. Sentite la ripresa. Gli archi sono di velluto, non sono più pizzicati dell'inizio, sono degli archi legatissimi. Il pianoforte con una mano sola, adesso due, ma all'unisono, semplicissimo. I fiati fanno delle note lunghe, come un tappeto, no, su cui galleggia il pianoforte. Un'altra straordinaria magia. Passiamo adesso al terzo movimento. Il terzo movimento è sfrenato, è una danza cosacca, proprio senza nessun tipo di interruzione. Non è vero, avrà delle interruzioni, anzi ne parleremo a fondo. Sentiamo dall'inizio. Qui c'è la presentazione degli strumenti, i fiati, gli archi, pianoforte. Ricamo. Senti che l'orchestra è come usata? È usata come un pianoforte allargato. Quattro note discendenti. Le conosciamo già. Vengono dal primo movimento. Adesso c'è un momento di passaggio. Ed ecco che attacca un altro episodio in cui il clarinetto sembra un pianoforte, sentite. Hai sentito quegli interventi del clarinetto quasi impercettibili, no? Come se ci fosse una terza mano del pianista. Ecco il secondo tema, sentite. Meraviglioso. Non vorrei rompervi il giocattolo, ma questo tema è in realtà una rilettura del primo tema, del primo movimento. Dopo vi faccio sentire. Adesso sentiamolo, perché è talmente bello. Adesso sentirete delle scale. Ecco, avete sentito queste scale? Queste scale le usa nella prima sinfonia, le usa nella quarta, le usa nella sesta, nello scherzo della sesta. È proprio un altro tic tipico di Tchaikovsky. Vi dicevo di questo... No, in realtà questo non viene dal primo movimento, ma viene dal secondo. Sentite. Caspita, è proprio... La trasformazione è questa, quindi è legato, diciamo, al secondo movimento che è legato al primo. Adesso andiamo avanti nell'ascolto e c'è l'ultimo pezzetto che sentiamo che è una mia passione. Sentiamo questo fantastico momento. Le due note iniziali di questo tema che vi ho appena suonato diventano ossessive e cominciano a salire, salire, salire. Sembra non avere mai fine la salita. Sentite, adesso si fermano in questa nota più acuta e uno si aspetta. Uno si aspetta quello e invece sentite cosa fa Tchaikovsky. Niente, passaggio di ottave granitiche. L'opposto di quello che uno si aspetterebbe. Ma adesso c'è lo sfogo, quello che noi non abbiamo sentito, no, 15 secondi prima ce lo fa sentire con gli interessi. Il pianoforte raddoppia all'unisono tutti gli archi e i legni. Sentite in questa scrittura in cui l'orchestra sembra un pianoforte allargato, Ed eccoci alla perorazione finale. Ecco, quello che mi piace sottolineare è che è sicuramente certo che la retorica faccia parte di questo stile, no? Tchaikovskiano, ma è assolutamente, certamente, proprio in maniera strepitosa, no? Graziata proprio questa retorica da un artigianato e un controllo poi in realtà della materia che, come avete visto, è degno dei grandi strutturalisti proprio. Tutto il pezzo si basa su pochissimi elementi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto dandovi appuntamento alla prossima puntata su Tchaikovsky. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare il concerto numero 1 opera 23 per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.